You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan. No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Questa sera siamo con Antonio Manzini, autore di un romanzo che è uscito in libreria da pochi giorni, Orfani bianchi per chiare lettere, scrittore e sceneggiatore. Grazie per essere con noi, benvenuto Manzini. Grazie per l'invito, grazie mille. Nel libro Orfani bianchi la protagonista è Mirta, una giovane donna moldava trapiantata a Roma in cerca di lavoro. Alle spalle si è lasciata un mondo di miseria, sofferenza e soprattutto il suo bambino. Quello che di bello ha nella vita, che le dà sostegno nei sacrifici, nelle umiliazioni. Manzini, come le è venuta in mente questa storia? Guardavo Maria, che stava tenendo mia nonna gli ultimi mesi di vita e mi stavo chiedendo che prezzo stesse pagando Maria per stare accanto a mia nonna. Così, un po' parlando con Maria, poi guardando, osservando, parlando con altre persone, mi è venuta voglia di raccontare la storia di una signora che viene dalla Moldavia, che viene a fare questo nel nostro paese, cioè stare accanto ai nostri nonni. Quindi questo romanzo nasce dall'osservazione di una persona reale, una persona come ce ne sono molte nelle case italiane, no? Che sì, di solito sono persone molto invisibili, delle comparse nelle nostre vite. Ed è proprio, mi pare di capire, questo che lei voleva portare al pubblico, il fatto che magari ci si debba un po' più accorgere di loro. Ma ci si può accorgere di loro, sono delle persone che vivono accanto a noi, entrano nelle nostre famiglie. Il problema è sempre quello, è parlare non soltanto di una persona tradotta in un altro paese, che significa tradotta in tutti i sensi, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista culturale, sociale, e noi che invece abitiamo in questo paese, come li percepiamo? Perché questa è una situazione in cui molte famiglie italiane si trovano, e volevo parlare anche dell'atteggiamento di alcune famiglie italiane nei confronti di queste persone. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. Sono sempre più convinto che l'istituzione famiglia abbia un po' fallito. L'istituzione famiglia intesa nella famiglia del dopoguerra, come meglio, come hanno cercato di formare le famiglie il capitalismo e anche un pochino la Chiesa cattolica, cioè padre, madre e figli. Da sempre l'uomo ha vissuto in clan, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il clan è un gruppo di persone, di familiari che condividono lo stesso tetto, lo stesso cibo, la stessa aria. Ed è sempre stato così, ed era un'istituzione molto più forte, molto più che si garantiva un futuro proprio in base al suo essere un clan. Adesso invece le famiglie sono diventate dei luoghi di solitudine, una parcellizzazione tale del nucleo umano che si arriva a non soltanto a delle solitudini, ma a delle disperazioni, perché non c'è più un mutuo soccorso, non c'è più un'empatia all'interno delle stesse famiglie. Un risultato è questo, per l'appunto, che non siamo in grado neanche, io mi ci metto in mezzo perché la mia famiglia ha fatto anche questo, siamo neanche in grado di badare a far compagnia, a stare insieme a delle persone come nonni, zii, eccetera, che vengono considerati un po' dei freni alla nostra esistenza. Quindi c'è la disgregazione di questa famiglia occidentale, ma tutto sommato anche della famiglia di Mirta. Ma Mirta la deve disgregare perché non certo per questo motivo, la colpa della storia, della società, dell'economia, sono tanti i colpevoli, però Mirta deve distruggere la sua famiglia per potergli dare un minimo di futuro. In realtà il libro parla proprio di un amore filiale, un amore enorme che Mirta ha per suo figlio, che è costretta a lasciarlo in Moldavia, e siccome non ha nonne, non ce l'ha più perché sono morte, lo devi lasciare in un internat che è un orfanotrofio. Per l'appunto da qui prende il titolo il libro, Orfani Bianchi. Gli orfani bianchi sono quei bambini lasciati negli orfanotrofi nonostante abbiano una madre, e a volte anche una madre e un padre, ma per motivi sociali sono diventati orfani. E qui nasce un dramma, una piaga sociale che di cui se ne parla poco, che invece purtroppo è una realtà abbastanza dura di quei paesi. E ha anche numeri molto importanti, leggevo 350.000 gli orfani bianchi in Romania, 100.000 in Moldavia, secondo l'UNICEF, e quindi una piaga sociale importante per queste donne e per questi bambini, no? Il bambino quindi finisce in questo orfanotrofio, sì. E Mirta scrive a lui. Sì, perché hanno la possibilità economica migliore per loro è quella di comunicare attraverso internet, perché le telefonate costano soldi. Parla molto, in realtà Mirta gli lancia tanti messaggi, cerca di raccontargli storie, e lui che non risponde, il bambino non risponde, perché non sa perché sta lì, non ha capito perché l'ha lasciato lì sua madre, perché si sta chiedendo forse: mia madre, mamma non mi vuole bene, cosa ho fatto per non meritare l'amore di mia madre? Tempo fa parlavamo di questo tema anche con la comunità di donne filippine in Italia, sì, e ci raccontavano sì. Una storia molto simile di rancori che questi bambini covano, e queste sì. donne hanno il forte rimpianto di aver lasciato questi figli, anche se chiaramente per dei motivi economici, proprio per mantenere questi ragazzi, questi bambini. Però poi anche lì c'è una disgregazione, no? Un destino spietato per la donna, ma anche per il bambino. C'è una riconciliazione con questo bambino? Nel libro no. C'è una brutta percentuale abbastanza alta, credo intorno al 25% di suicidi nel caso degli orfani bianchi, e c'è una percentuale anche molto alta di entrata nella criminalità una volta che l'internat viene lasciato per la maggiore età, quindi i numeri non sono positivi, anzi. Facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra pochissimo ancora con Antonio Manzini, autore di questa storia, di questo romanzo, Orfani Bianchi, che ha come protagonista un'immigrata moldava. La prossima volta verrete a cena da noi, sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Florence ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of, that's the glory of. Torniamo con voi a parlare di questo romanzo, Orfani Bianchi, pubblicato per Chiare Lettere dallo scrittore Antonio Manzini, che racconta la storia di una giovane donna moldava e della sua nostalgia per il figlio lasciato nel suo paese d'origine e la sua esperienza in Italia. Mi veniva in mente mentre parlavamo di questi abbandoni, di queste madri per poter dare da mangiare a questi figli, quello che facevano le donne in Italia andando magari in Svizzera, lasciando i propri figli per andare ad accudire i figli delle famiglie svizzere. Io sono veneta e questa cosa accadeva molto spesso. Come mai invece lei ha deciso di dedicare Mirta all'accudimento degli anziani? Perché in effetti poteva essere una storia del contrappasso, quella di dover accudire, come spesso accade, i bambini delle famiglie occidentali. Perché mi interessava anche un rapporto fra due disperazioni, fra la disperazione di Mirta e le sue difficoltà nell'essere attaccata alla vita con le unghie e con i denti, e quella invece di una persona anziana che non è più attaccata alla vita, anzi considera la vita un accanimento terapeutico e vorrebbe chiuderla lì. Sono i due disperazioni agli opposti, se ci pensa, però l'incontro causa un cortocircuito fra Mirta e una di queste anziane a cui lei bada. Mi interessava parlare dell'eguaglianza della disperazione al di là dell'economia, al di là della classe sociale d'appartenenza, cioè che disperazione e morte sono molto democratiche, non guardano in faccia a nessuno, insomma. Sì, perché senza voler fare dello spoiler su questa storia che tutti potete leggere perché scoprire nelle sue particolarità, Mirta a un certo punto si dedica al lavoro della cura di una donna ricca, ma difficile, molto difficile. Donna Elvira, sì. E tra l'altro fa di tutto per avere questo lavoro. Sì, perché è un lavoro molto ben retribuito. Donna Elvira è di una famiglia molto importante romana, molto ricca, vive da sola in una casa, un maniero praticamente, all'Aventino. C'è uno stipendio molto alto, perché si richiede non soltanto una badante, ma si richiede un'infermiera, quindi una persona specializzata, perché questa signora ha bisogno di parecchie cure. E nel rapporto il rapporto di odio iniziale fra le due donne, poi si cominciano a comprendere, soprattutto Mirta capisce il dramma di Eleonora, e Eleonora anche, ma lei è una donna ricca, è concentrata solo su se stessa, anche nella disperazione, e poco comprende il dramma di Mirta, anzi diciamo che forse non ci empatizza proprio per niente. Lei ha una richiesta da fare a Mirta, la fa, è una richiesta che può fare soltanto all'anello debole, di questa famiglia, non certo né la nuora né il figlio, ma lo fa la badante, cioè quella che lei pensa di poter manipolare. Ed è una richiesta che Mirta non può ottemperare, insomma. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Si incontrano insomma queste due disperazioni e questa donna ricca, questa signora anziana viene definita un ammasso d'odio represso. Sì. Questo a volte quando si legge di queste signore che Mirta accudisce sembrano delle persone votate alla fine e tutto sommato dimenticate proprio dalla famiglia, ma sì. È proprio così, non è un po' un cliché? In molti casi è così, perché altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui Non si prendono in casa persone, nonni, zii e nonne, ma le si lasciano stare nella casa da dove hanno sempre vissuto, mettendogli accanto una badante. Per quale motivo non vengono, diciamo così, reintegrate nella famiglia? Perché non c'è spazio, perché non c'è empatia, perché non c'è considerazione. Una persona anziana alla fine della sua vita è come una macchina rotta, non vale neanche tanto la pena di essere riparata. Questo è quello che io vedo accadere davanti ai miei occhi, poi in molte altre situazioni non è così. Il filippino, però, che viene chiamato Filippo per semplificare le cose, visto che un nome non ha importanza. Il nome non ha importanza, filippino è Filippo, troppo lungo da ricordarsi, ha un nome complesso, no? Io credo che dovremmo cominciare a pensare alla famiglia non soltanto come un luogo come un ammortizzatore sociale, ma dovremmo riconsiderarla come quella per cui la famiglia è nata, cioè un luogo dove si vive e si muore e si crea e si distrugge anche. Ed è un luogo di scontri, ed è un luogo sicuramente di antipatie, anche di odi a volte, però è sempre stata l'architrave di una società. Ma non la famiglia come la si intende adesso, la famiglia come la si intendeva fino a 60 anni fa. Le faccio una provocazione: se resistesse quel tipo di famiglia, probabilmente le donne non dovrebbero più lavorare, perché per accudire queste persone molto spesso si dedicano a questo le donne che ora lavorano. Il problema è che secondo me la famiglia intesa come madre, padre e due figli è riuscita a tenere duro per una settantina d'anni proprio sulle spalle delle donne, che hanno rinunciato ai loro sogni e alle loro mete per tenere in piedi una famiglia. È la donna che è stata l'architrave di una situazione, per me, socialmente disperata. Vede, nelle famiglie grandi, come intendo io, i clan, l'anziano non ha bisogno di un badante, perché è talmente grosso il numero delle persone all'interno della casa, che sia dal punto di vista educativo dei bambini che del mantenimento degli anziani, non c'è da dire che sarà la donna a farlo. Pensi che ci sono delle situazioni, c'erano delle situazioni di miei parenti, in cui c'era il famoso zio, che era un nulla facente, che era colui che invece, per esempio, stava accanto alla mia bisnonna, per dirne una. Quindi non è vero. Anzi, è vero adesso che la famiglia è in queste condizioni. Cioè che la donna finalmente non vuole più rinunciare ai suoi sogni e quindi finalmente questo sistema famiglia è crollato. Something has to make you run. Why? don't know why I didn't come. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. La sua protagonista non riesce a portare in Italia il figlio perché, fatti due conti, no. La vita in Italia costa troppo. Sì. Allo stesso tempo però si sente una pessima madre, si sente in colpa perché in realtà pensa ai bisogni materiali del figlio, ai soldi, ai videogiochi. Certo, al maglione. E lei per adesso gli corre dietro a quello, non potendo fare altro, forse nascondendolo anche a se stessa. Sono tutti succedanei, no? Di quello di cui forse ci sarebbe bisogno, ma lei pensa soltanto e corre dietro soltanto al mantenimento fisico e fisiologico del figlio. Poi a un certo punto riscopre se stessa come donna, perché un grande tratto comune di queste donne che vengono in Italia, che lavorano in Italia come badanti o babysitter e che noi ascoltiamo spesso nella nostra trasmissione, è quello di dimenticare loro stesse per radunare un po', raccogliere i soldi e mandarli alla famiglia d'origine e nel lavoro estenuante come badanti e babysitter. Invece ci sono dei momenti in cui queste donne riscoprono loro stesse. Beh, si ricordano di essere delle donne, finalmente, cioè si riscoprono donne più che altro, cioè con dei capelli, con degli occhi, con un corpo, con un'anima, con un cuore. Infatti Mirta rimane stupita quando c'è un uomo che si fa avanti perché si è innamorato di lei e lei l'aveva accantonato questo problema, l'aveva messo da parte, lei pensava solo come un bue a portare avanti la carretta e non pensare ad altro se non a trascinare sta carretta pesantissima. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. Però gli uomini nel suo romanzo rimangono molto sullo sfondo, non sono figure che cambiano i destini. No, non lo sono, ma quella è una mia speranza. Com'è passare dalla costruzione di un racconto giallo, da un successo così grande grazie al personaggio di Rocco Schiavone, a un romanzo su una donna addirittura, quindi un cambio di prospettiva totale? Ma sa cosa, in realtà sono sempre figli della stessa matrice. Perché sia Rocco Schiavone che fa il detective, ma per finta, perché in realtà lui mi serve per andare a parlare d'altro, e anche Mirta, sono due certamente personaggi all'opposto, quasi potrei dire, però sono due personaggi che mi aiutano a raccontare il paese in cui vivo. Lo si fa attraverso una molla narrativa come quella del giallo, fra virgolette, che però rimane sì una parte della storia, ma non la parte più importante. E invece qui è un romanzo, forse potrei definirlo di diseducazione sentimentale. La matrice è la stessa, raccontare le storie degli ultimi, del mio paese, di quello che vedo ogni giorno e che mi circonda. Into the quiet. so carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. Grazie, grazie ad Antonio Manzini, autore. Ma grazie a voi. Autore di Orfani Bianchi per Chiare Lettere, per essere stato con noi stasera. Grazie, bocca al lupo per grazie il suo mille. Libro. Lunga vita al lupo, grazie. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi do appuntamento a sabato prossimo con altre storie dell'Italia che cambia grazie anche alla presenza degli stranieri, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. Se volete scrivermi per notizie, informazioni, critiche, suggerimenti, tutto quello che volete raccontarci, vi furlanetto at radio24.it. Buona serata a tutti, a sabato prossimo. Ciao. You've got to give a little, that's the glory of